Grazie Andrea. Facciamo un applauso anche ad Andrea. Quando è arrivato stasera e mi ha visto, ha detto: ho visto la lavagna. Era già pronto. Grazie Pastore Pinuccio, sei fantastico. E questa sera noi continuiamo la nostra avventura. Ora, non so se voi avete riflettuto su tutto il percorso che abbiamo fatto nell'andare a leggere insieme il libro degli Atti degli Apostoli, però da quando abbiamo iniziato la nostra avventura attraverso il libro degli Atti degli Apostoli, abbiamo imparato insieme che questo piano di salvezza che Gesù aveva per l'intera umanità è iniziato molto tempo prima della creazione del mondo. Vi ricordate quando ci siamo fermati e abbiamo visto come Dio Padre, Figlio e Spirito Santo aveva già un piano per incontrare la mia vita e la tua vita e farci fare pace con Dio Padre? E questo piano, che è iniziato prima che il mondo fosse creato, è partito con la scelta per fede di Abramo. Dio ha scelto per fede Abramo e attraverso di lui ha costituito un popolo, il popolo di Israele. Un popolo che sarebbe stato manifestazione davanti a tutti gli altri popoli stranieri di che cosa significa essere figli di Dio, appartenere a Lui e vivere una vita benedetta che rispecchiasse la volontà del Padre. E poi abbiamo imparato insieme come questa salvezza per fede è stata estesa in Cristo Gesù, attraverso la sua morte e resurrezione e la discesa dello Spirito Santo a tutti i popoli stranieri, che per grazia di Cristo Gesù, nel credere che Cristo Gesù è il loro Redentore e il loro Salvatore, hanno avuto accesso a questa salvezza eterna. Fantastico! E nell'episodio precedente, un po' come le puntate, no? Le serie TV, no? Che ti fanno il riassunto prima. Nell'episodio precedente, se ce lo siamo dimenticati, su YouTube lo troviamo, abbiamo sviscerato il tema della circoncisione. E quindi ci siamo detti: circoncisione sì, circoncisione no. E abbiamo un po' visto come anche i discepoli, quanto sia stato delicato e complicato per i discepoli andare ad analizzare questo aspetto così radicato nella cultura ebraica, che adesso si apriva ad accogliere tutti gli altri popoli e faceva diventare la Chiesa una Chiesa di tutti e non solo la loro. E abbiamo letto l'ultimo intervento di Pietro. In Atti capitolo 15, per l'ultima volta leggiamo di Pietro, di quello che è il suo intervento nel percorso storico che l'autore del libro degli Atti, Luca, farà successivamente. Infatti successivamente Pietro uscirà di scena, già dal capitolo 16 non leggiamo più niente di lui, perché Luca si concentrerà su Paolo e su tutti i viaggi missionari che Paolo farà alla volta di Roma. E quindi la volta scorsa ci siamo lasciati con questo, che al verso 7 di Atti capitolo 5 Pietro si alzò in piedi e disse: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me. Ricordatevi questo scelse tra voi me, perché lo andremo a vedere tra un po' insieme, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi. E non fece alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Quella stessa fede che aveva scelto Abramo e l'aveva portato ad entrare in un regno di salvezza è la stessa fede che ha scelto tutti i popoli stranieri e ha scelto me e te oggi e ci permette di entrare a far parte di questa famiglia che è la Chiesa di Dio. Or dunque, verso 10, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri vostri e né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù allo stesso modo di loro. Cornelio, aiutato da Pietro, aveva sfondato quella porta per permettere alla salvezza di raggiungere gli stranieri. E quel giorno, in quella casa, c'è stata una dimostrazione chiara e vivente che la grazia divina di Cristo Gesù nella sua sovranità dà valore e dignità alla storia della nostra vita, permettendoci di entrare in una storia molto più grande, una storia che è iniziata molto tempo prima che io e te potessimo nascere ed entrarvi a farne parte, una storia che continuerà ancora per molto altro tempo dopo, quando io e te non ci saremo più qui, fino a quando Gesù tornerà. Una storia, abbiamo visto insieme, che ci parla del piano di salvezza. Il piano di salvezza, la missione che Dio aveva per raggiungere il nostro mondo rotto dal peccato, dalla ribellione, dalla disubbidienza, dall'odio, e salvarci, e salvare la nostra anima. E abbiamo visto come Gesù vivo abilita la storia della nostra vita ad entrare a far parte di tutta questa storia. Abbiamo visto come Gesù vivo permette al nostro piccolo tassello della nostra storia di entrare e incastrarsi perfettamente nel piano di salvezza eterno che Gesù ha. Abbiamo visto anche come, in un qualche modo, a un certo punto, Sofia è stata chiamata a venire in Italia, vi ricordate? E poi nel tassello della sua vita ha incontrato Giuseppe a Tricarico. Improbabilissimo. Se ce lo avessero raccontato, io non ci avrei creduto che un olandese sarebbe andato a Tricarico. Io non so neanche dov'è. E nel loro incontro con Gesù e tra di loro è nata la nostra Chiesa. Questo è solo un piccolo tassello di tutti i tasselli della storia nostra e di chi è venuto prima di noi. E questo ci dice qualcosa. Questo ci fa capire che anche noi, come Pietro e Cornelio, attraverso il riempimento dello Spirito Santo, possiamo entrare a far parte di questa storia e dare valore e significato con la nostra vita al piano di salvezza che Gesù ha, non solo per noi, ma per tutte le persone intorno a noi. Non so a voi, ma questa cosa a me mi fa venire il mal di testa. Cioè, io ho cercato di spiegarcela, però non riesco a spiegarla poi fino in fondo. E credo che alla vigilia di Venga il tuo regno, così come il pastore ci ha annunciato, mancano 24 giorni a Venga il tuo regno. Siamo al 7 ottobre, il 1 novembre staremo tutti a Park Hotel Elizabeth. L'ho detto pure online, ci verrete tutti a trovare. Se non ti sei registrato, che cosa stai aspettando? Era col sorriso che ve lo volevo dire. Mi avete fatto una faccia... Credo che alla vigilia di Venga il tuo regno sia importante un po' per noi capire che cosa è successo a Pietro. E prima che, diciamo, lui esca di scena dalla narrazione che andremo a vedere negli episodi successivi di quello che è gli Atti degli Apostoli, io credo che forse sia importante per noi capire come il regno di Dio è entrato nella sua vita. Che cosa è accaduto a lui? Perché io non so se voi vi siete resi conto, però quando lui si è trovato davanti a Cornelio, lui è andato dritto. Lui sapeva che Dio lo aveva scelto perché lui era quell'apostolo tra tutti gli altri che avrebbe predicato la salvezza ai gentili e agli stranieri. Ed è andato come un treno, non ha avuto paura, non si è vergognato, non si è preoccupato, ha sfondato come un ariete la porta della salvezza e ha permesso a Cornelio e a tutti quanti noi di essere qui oggi alla presenza di Dio. Chi lo sa? Se tra di noi Gesù ha scelto proprio te per fare qualcosa che nessuno ha ancora fatto, per arrivare dove nessuno è ancora arrivato, per portare il suo regno dove nessuno l'ha ancora portato. Chissà se non ha scelto proprio te. E sapete qual è la domanda che poi mi è entrata in testa? La domanda che noi ci poniamo, che non è a me, è a chi sta accanto a me. Sempre. Perché? Cioè, perché tutto questo non può essere per te? Perché? Questa è la domanda che io mi voglio porre. Perché Gesù ci ha scelto e noi viviamo la storia della nostra vita come se non desse, se non fosse essenziale, se non fosse importante ai fini del piano di salvezza che Lui comunque vuole realizzare attraverso di noi. Perché dobbiamo vivere una vita lasciandoci vivere? Quando Gesù è venuto affinché noi potessimo avere vita, e vita in abbondanza, e vita piena, e vita che non è solo per noi, ma che è più grande di noi. Sì? E quindi faremo una sorta di flashback, come nei film, quando tu vedi la fine della storia e poi ti fanno vedere l'inizio, no? E tu stai lì che dici, ah, vediamo che cosa accade. Questa sera andiamo a vedere un po' che cosa è accaduto nella vita di Pietro e andremo a leggere insieme un episodio che secondo me spiega perfettamente quella frase che lui ha detto. Dio scelse tra tutti voi me. Perché Pietro era così sicuro? Andiamo a leggere. Giovanni capitolo 21 dal verso 1. Gesù era morto, era risorto, era apparso già due volte ai discepoli e ora appare per la terza volta ai discepoli e leggiamo che cosa succede. Dopo queste cose Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro, io vado a pescare. Ed essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro, figlioli, avete del pesce? E loro gli risposero no. Ed egli disse loro, gettate la rete sul lato destro della barca, perché lì ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore! È Lui! E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ora, dovete sapere che era uso e costume per i pescatori di barca che tiravano le reti, tirare le reti senza le tuniche addosso, perché le tuniche erano un impiccio ed erano un ostacolo in tutti quelli che erano i movimenti. Quindi si pensa che Pietro fosse nudo o avesse giusto un drappo che lo coprisse. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messo di su e del pane. E Gesù disse loro, portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. E Gesù disse loro, venite, facciamo colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni. Il titolo del messaggio di questa sera è Simone di Giovanni. Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Ed egli rispose, sì. Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? Ed egli rispose, sì. Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? E Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene? E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti voglio bene. E Gesù gli disse, pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. E disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio, e dopo aver parlato così gli disse: seguimi. Simone di Giovanni. Non è interessante che tutte e tre le volte che Gesù si rivolge a Pietro lo chiama con il suo vero nome? Perché il vero nome di Pietro, il nome che i genitori gli avevano dato alla nascita, era Simone di Giovanni. Mi ha fatto molto riflettere questo. Era come se Gesù volesse dirgli: io lo so che tu per tutti sei Pietro. Sono stato io che ti ho chiamato Pietro per la prima volta. Sono stato io che ho detto che su questa pietra avrei edificato la mia chiesa, e le porte dell'inferno non avrebbero potuto resisterti. Io lo so. Ti sei dimenticato da dove vieni? Ti sei dimenticato chi eri? Io lo so che ti ho dato il nome Pietro, ma ti ricordi che quel giorno, su quella barca, è Simone di Giovanni che io ho visto? Te ne sei dimenticato? Quel giorno, da quella barca, è Simone di Giovanni che io ho scelto. Quel giorno, da quella barca, è Simone di Giovanni che io ho chiamato. È Simone di Giovanni che io ho amato. Che cosa è tutta questa ansia da prestazione che ti è venuta adesso nel voler dimostrare a tutti quanti che sei Pietro, che ce la fai, che ce la puoi fare, che sei capace, che hai capito che cosa significa vivere la missione che io ti ho affidato? Da dove viene tutto questo? Non vi ho detto io che senza di me non potete fare nulla? È Simone di Giovanni che io amo. Io ho scelto Simone di Giovanni, un semplice pescatore. Te ne sei dimenticato da dove vieni? Simone di Giovanni, ricordati da dove vieni, perché io ho fatto pace con te. E se io ho fatto pace con te, vuol dire che tu puoi fare pace con te stesso. Perché io ti sono venuto incontro, ti sono venuto a cercare. Io ti ho visto, io ti ho amato. Te ne sei dimenticato? Pensi che ora devi essere quello che non sei per poterti far amare da me? Simone di Giovanni, mi ami? Mi ami tu più di questi? Punto numero uno, per noi questa sera, Gesù dice: io ti sto cercando. Io ti sto cercando. Simone di Giovanni, io lo so, tu hai fallito. Tu mi hai rinnegato. Te ne sei scappato, hai avuto paura, sei finito su questa barca, non sei neanche riuscito a pescare nulla. Cioè, se non te lo dicevo io, a mani vuote rimanevi. Simone di Giovanni, io lo so che non sei stato in grado di essere quel leader e quella guida che pensavi di poter essere per le persone che io ti avevo affidato. Simone di Giovanni, mi ami? Io ti sto cercando ancora una volta. Io sono venuto da te ancora una volta. Simone di Giovanni, mi ami? Il Signore ti sta cercando. Il Signore mi cerca. Al di là del mio fallimento, al di là del mio peccato, al di là del tuo fallimento, al di là del tuo peccato, il Signore, Gesù, viene a cercarti. Dove tu hai fallito come marito, Gesù viene a cercarti. Dove tu hai peccato, Gesù viene a cercarti. Dove tu non riesci a vivere e a superare quella dipendenza, Gesù viene a cercarti. Io ti vengo a cercare. Questo ti sta dicendo Gesù questa sera. E sapete cosa? Io la scorsa settimana mi sono obbligato a spendere del tempo digiunando e pregando in un posto appartato. E ho deciso di andare sul mare, c'era vento, non faceva caldo, però ho detto: io lo devo fare. E perché a volte ho bisogno di questi metodi un po' traumatici con me stesso, non lo so voi. E quindi ero lì e stavo adorando Dio con un canto che tradotto l'ho voluto tradurre per noi, dice questo. Dice, tutto ciò che voglio è vivere nel tuo amore, essere annullato da chi sei tu. Il mio desiderio è conoscerti più a fondo. Signore, mi aprirò di nuovo a te. Getta le mie paure nel vento, perché io sono disperato per un tocco da parte tua. E mentre io ripetevo questo coro e cantavo queste parole, confessavo queste parole su di me, ho sentito dentro di me che Gesù mi stava dicendo: ehi, io ti sono venuto a cercare. Antonio De Nicolo, io ti sono venuto a cercare. Al di là di quello che è sbagliato, al di là del tuo non essere adeguato, perché noi siamo inadeguati e siamo incompetenti. Questa è la verità. Come possiamo essere competenti nel portare avanti la missione di Dio? Come possiamo essere adeguati nel rispondere alla sua chiamata? Questa è la novità per noi forse stasera. Ma nel nostro essere inadeguati e incompetenti, Gesù ci ha scelto. Gesù ci ha amato. Lui lo ha fatto davvero. E lui mi ha detto, non sono le cose deboli le cose che io ho scelto. Non sono le cose che non sono quelle che io ho scelto. Qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema questa sera? Gesù ti viene a cercare e supera il tuo essere inadeguato come marito, il tuo essere incompetente come moglie, il tuo non essere in grado di essere quel genitore che saresti potuto essere. Gesù ti viene a cercare nel punto dove tu sei. Simone di Giovanni, mi ami. Simone di Giovanni, mi ami. Punto numero due. Gesù dice, io ti sto guardando. Io ti sto guardando. Non guardare al tuo fallimento. Basta. Non guardare al tuo peccato. Basta. Non guardare a tutte le circostanze intorno a te. Io ti sto guardando. Ti sono venuto a cercare. Il mio sguardo è su di te. I miei occhi sono su di te. Perché tu sei stimato. Perché tu sei prezioso. Guardami. Guardami. Perché io ti sto guardando. Nella tua malattia, guardami, perché io ho i miei occhi su di te, perché io voglio prendermi cura di te. Nelle tue dipendenze, guardami, perché io ti sono venuto a cercare, io sono qui davanti a te. Guardami, guarda me, basta guardare il resto. Concentrati su di me, permetti a me di prendermi cura di te. Sapete una cosa? Gesù vuole prendersi cura di te e vuole prendersi cura di me. E i suoi occhi sono su di noi. E sapete, una delle prime volte che lui mi ha detto guardami è stato il 1° novembre del 2003. Avevo 22 anni, quasi 23. Avevo Gesù nel mio cuore, ok? L'avevo già incontrato ed ero alla conferenza di Generazione Scelta. E in quell'occasione Gesù mi disse, Antonio De Nicolo, guardami, non dire sono solo un ragazzo. Questo era il tema di quella conferenza. E io sono tornato a casa quel giorno e me lo sono scritto da tutte le parti, sul muro della cameretta, nelle ante dell'armadio, nella cartolina che c'avevo nella Bibbia, nel segnalibro che c'avevo nei libri dell'università, sulle mani, non me lo sono tatuato, sulle mani, sulla fronte, nelle cartoline. Me lo sono ripetuto così tante volte che alla fine io ci ho creduto. Di a te stesso le parole che Gesù ti dice. Di a te stesso le parole che Gesù ti dice. Dove te ne puoi andare? Se non che da Lui, perché solo Lui ha quelle parole di vita per te. Guardalo, guardalo e ascolta quello che Lui ti dice. Permetti a Lui di parlarti e di guardarti, di sentire che Lui è con te e si prende cura di te. E sapete cosa dice in risposta alle risposte di Simone e di Giovanni, Gesù. Al verso 15, quando Gesù lo è andato a cercare, quindi nel punto precedente, lui gli ha detto: pasci i miei agnelli. E la combinazione delle parole utilizzate nel testo originario di questa frase significa che Gesù sta commissionando a Pietro di provvedere al nutrimento spirituale delle persone che ancora non conoscono Gesù. Gesù gli stava dicendo: Pietro, io ti sono venuto a cercare oggi, perché io so che tu andrai a cercare Cornelio e tu aprirai una porta agli stranieri. E al verso 16, quando Gesù gli chiede: Pietro, mi ami? E Pietro dice: sì, ti amo. E lui gli dice: io ho il mio sguardo su di te, io ti sto guardando. Gesù commissiona a Pietro la cura pastorale della Chiesa. Gesù sta dicendo a Pietro: io mi prendo cura di te, vivi la cura che io mi prendo di te, perché tu dovrai prenderti cura di tutti i credenti della Chiesa. Permetti al mio amore di nutrirti. Terza domanda: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Terzo punto, Gesù dice: io ti sto amando. Simone di Giovanni, mi ami? Mi ami tu? Stai capendo che io ti amo? Stai capendo? Hai capito quanto io ti amo? Stai facendo scendere dentro di te e risiedere in te questo amore che io ho per te? Simone di Giovanni, io ti sono venuto a cercare, io ti sto guardando. Hai capito quanto io ti amo? Hai capito che io sono per te, che io ho stima di te, che tu sei prezioso per me? Simone di Giovanni, mi ami? Stai dando valore all'amore che io ho per te? E sapete che è curioso, però è così come siamo noi. Pietro si rattrista che Gesù glielo chiede per la terza volta. Come se Pietro pensa che Gesù voglia essere rassicurato del fatto che lui lo ama. Come se Gesù ha bisogno di essere convinto da parte nostra, perché lui ha bisogno di sentirsi amato da noi. Non facciamo così noi a volte con lui. Beh, mo te lo do il contento, eh? Oggi ho letto, eh? Che perché ti amo che sto a leggere la Bibbia io. Che mi sono obbligato ad andare là sulla spiaggia perché ti amo, eh? Anche pensi che mo fai rigettato con me. Non viviamo così a volte noi. Gesù è Dio. E Dio è amore. E lui non ha bisogno di essere rassicurato da me e da te. Io ho bisogno di avere consapevolezza di quell'amore che lui ha per me dentro di me. Sì? Riuscite a cogliere la differenza? Simone di Giovanni, mi ami? Lo hai capito? Lo hai capito che io sto qua per te? Che io ho dato la mia vita per te? Gesù ti sta amando. Amalo. Amalo con tutto te stessa, con tutto te stesso. Amalo. Amalo dell'amore che lui ti ama. E lasciati amare dal suo amore. Questo è quello che ci sta chiedendo Gesù. Questo è quello che ci manca. Questo è quello che permette al suo regno di venire dentro di noi, di venire attraverso di noi. Il suo amore che è dentro di noi esce. Esce domani quando saremo nel nostro posto di lavoro, esce domani quando saremo a scuola, esce quando torniamo a casa, in quello che è il bisogno che c'è nella nostra casa. Questo permette al regno di Dio di venire e di crescere in noi e attraverso di noi. E alla terza risposta che Simone di Giovanni dà a Gesù, Gesù gli dice: pasci le mie pecore. E in questa frase Gesù commissiona a Pietro il provvedere al nutrimento della cura e della crescita spirituale per la Chiesa. E Gesù sta dicendo: Pietro, io sono qui, io mi prendo cura di te. Dove tu sei? Dove tu sei? Tu sei ritornato a pescare. Ma che ci fai? Che non lo sai neanche fare più. Io ti ho reso un pescatore di uomini. Io ti ho reso un pescatore di uomini. Ma che perdi tempo a fare? Che perdiamo tempo a fare, amici miei, amiche mie? Che perdiamo tempo a fare? Gesù vuole servirsi di noi per permettere ad altre persone di crescere e riconoscere che Lui è Dio. Sapete una cosa? Non c'è niente che Gesù ci dà che è per noi e rimane solo per noi. Ogni cosa che Gesù dà a noi non è solo per noi stessi, ma è per tutte le persone intorno a noi. Quello che Gesù ha rivelato a Pietro in questa occasione è servito affinché dalla sua bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. Tempo ci è voluto. Era Pietro, no? Da Giovanni 21 ad Atti 15. Chissà quanto tempo ci è voluto. Ma alla fine ce l'ha fatta. E se ce l'ha fatta Pietro, ce la possiamo fare pure noi. Sì? Sapete, è la prima volta che mi sono, una delle prime volte che mi sono imbattuto in questo verso, quando Gesù per la prima volta mi ha parlato di questo verso, è stato il lunedì 2 febbraio, 12 febbraio del 2007. E allora ero solito scrivermi le cose che Gesù mi diceva. E Gesù mi ha detto: ritorno ad essere solito. E ve lo voglio leggere. E io ho scritto così: durante il digiuno di oggi ho meditato su Giovanni 21, quando Gesù riappare ai discepoli in riva al mare di Galilea e Pietro corre a nuoto da lui. Era la prima volta che Pietro rivolgeva la sua parola a Gesù dopo la sua morte e risurrezione. Gesù era apparso altre due volte ai discepoli prima di quel momento, ma non si era ancora rotto il suo cuore davanti a Cristo per averlo rinnegato tre volte. E Gesù gli chiede tre volte: mi ami tu? E a quelle tre risposte Gesù dice a Pietro: pasci i miei agnelli. Signore, tu sai ogni cosa. Tu sai in cosa io ti ho rinnegato più di tre volte. Tu conosci il mio cuore. E fino ad ora è stato come se tu mi fossi apparso, ma non si fosse rotto nulla dentro di me. Come se io non avessi la forza e il coraggio di guardarti faccia a faccia per quello che avevo fatto. Perdonami, Signore, tu sai che io ti amo. Ti amo perché ho scelto di amarti oltre la mia stessa vita, perché prima di me tu mi hai amato oltre la tua stessa vita. Perdonami perché è come se avevo dimenticato questo amore così forte e reale e vivo dentro di me. Ma grazie perché il tuo amore è andato oltre. Arrivando su quella barca, senza pesci, dove io mi trovavo a fare qualcosa giusto per fare. Grazie perché quando avevo perso le tue promesse per me, io che ero convinto e certo di non poterle perdere o mettere in discussione, tu sei venuto e con il tuo amore mi hai nuovamente amato, indicandomi il lato da dove dovevo buttare la rete. Perdonami perché ho deciso di salire su quella barca portandomi dietro tutti gli upside down senza essere prima venuto con tutto il mio cuore realmente da te. Perdonami per aver dimenticato il mio primo amore per te e aver peccato contro di te. Voglio ravvedermi e ritornare ad amarti per me, la mia vita e le promesse per la mia vita, affinché io possa pascere i tuoi agnelli come tu desideri, amando te e amando ognuno di loro del tuo amore che vive in me. Grazie perché anche quando non vedo la speranza davanti a me, tu vieni verso di me e mi ricordi che la mia speranza sei tu. E poi ho fatto tanti versettini, tante cosettine, ero un po' cocchino. In fondo c'è un Simone di Giovanni in ognuno di noi. Sì? Tempo ci è voluto. Sono passati 11 anni da quando per la prima volta forse mi sono fermato a riflettere su questo verso. E ancora oggi forse sto capendo quello che Gesù mi vuole dire. Tempo ci vuole, ma ce la puoi fare. Ce la possiamo fare. E questa sera stiamo per vivere la cena del Signore. E prima di andare a vivere la cena del Signore insieme, di' alla persona accanto a te: tu ce la puoi fare. Gesù, di all'altra persona che sta dall'altra parte, di Gesù crede in te. Voi pensate che sia uno scherzo questo? Però questo ha valore, perché quello che esce dalla tua bocca alla presenza di Dio può costruire qualcosa di nuovo nella vita di chi è accanto a te. E forse chi accanto a te sta pensando di non potercela fare. Il tuo guardarlo in faccia e dirgli che lui ce la può fare fa la differenza. Sì? Alziamoci in piedi. Venga il tuo regno, non inizia il 1 novembre, inizia oggi, qui e ora. Anzi, a dire il vero, venga il tuo regno iniziato da quando lo Spirito Santo ha concepito nel grembo di Maria Gesù Cristo, perché lui ha portato il regno di Dio su questa terra. Questo è giusto così, per non dire cose sbagliate. Ma venga il tuo regno, parte qui, oggi, stasera, e stiamo per approcciarci alla cena del Signore e mangeremo di quel pane e berremo di quel vino, che sono il simbolo del sacrificio che Gesù ha fatto per me, per te e per tutte quelle persone che ancora non lo conoscono. E Gesù stesso ci comanda di vivere la cena del Signore ricordandoci del suo sacrificio per noi, in memoria di lui, in aspettativa del suo ritorno, aspettando, gioendo che lui sta ritornando, che lui ha spezzato il suo corpo per noi, ma lui ritornerà. E io voglio incoraggiare noi questa sera a vivere la cena del Signore in maniera intima. Io ho preparato il foglio guida per i gruppi familiari. Avrete tempo per pregare con chi è con voi e con chi è accanto a voi. Nei gruppi familiari parlerete di questo messaggio. Avrete modo di ministrare l'uno all'altro. Ma questa sera, nel partecipare alla cena del Signore, vivilo in maniera intima, tu, con Cristo Gesù. Permetti a Lui di cercarti e di sentirti cercato, qui e ora. Permetti a Lui di guardarti e di sentirti guardato da Lui, qui e ora. Permetti a Lui di amarti e tu di sentirti amato, qui e ora. Lascia perdere tutto intorno. Prendi quel pane, prendi quel vino e amalo dell'amore che lui ha riversato in te. Perché il momento che stai per vivere avrà più valore di qualsiasi altro momento se il nostro cuore si apre davanti a Dio e davanti alla cena del Signore. E proprio perché la cena del Signore è qualcosa di così profondo, di sacro, di intimo, di santo, se non hai ancora scelto di battezzarti, se non hai ancora fatto quel passo del battesimo da adulto, dove tu hai detto a me non importa di tutto il resto, io lo voglio dichiarare davanti a tutti che sono di Gesù e non mi vergogno e non mi importa, basta. Se non hai ancora fatto quella scelta, stai nel percorso per farla, però vuoi comunque pregare, io sarò qui davanti e non voglio che tu ti senti escluso dal partecipare alla cena del Signore e rimani seduto lì pensando che non è a te quello che Gesù ti voleva dire, perché è a te. E io sarò qui davanti, potremo pregare insieme, ci sarà la squadra per pregare insieme e lo potremo fare insieme, mentre tutti gli altri noi che abbiamo deciso e dichiarato che Gesù è il nostro Salvatore possiamo partecipare alla cena del Signore. Ci piace? Lo vogliamo fare? Vogliamo pregare per benedire il pane e il vino? Signore Gesù, grazie. Grazie perché tu hai rotto il tuo corpo e hai versato il tuo sangue affinché il nostro corpo potesse essere sanato e il tuo sangue potesse lavarci da ogni peccato. Noi vogliamo benedire questo pane e questo vino che questa sera andremo a prendere con te, cenando con te, Signore Gesù. Noi ti preghiamo che tu possa far scendere e risiedere in noi il valore del tuo amore. Questa sera vogliamo incontrarti, Signore Gesù. Vogliamo incontrarti attraverso la partecipazione alla cena, alla tua cena, Signore Gesù. Che possiamo fermarci e cenare con te per ricevere da te quello che tu hai preparato per noi. Nel tuo nome lo preghiamo, Signore Gesù. Amen. possiamo partecipare alla cena del Signore, e se non partecipi alla cena e vuoi chiedere preghiera.